You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. Take a little. Di Valentina Furlanetto. That's the glory of love. Oggi è stato uno strano giorno. Credo anzi di non esagerare affermando che è stato un giorno veramente straordinario. Mi è stato gentilmente spiegato da mia figlia che aveva intenzione di sposarsi e che il suo promesso era un giovane uomo che non avevo mai visto e oltretutto negro. Beh, mi pare giusto riconoscere che ho reagito a questa notizia nello stesso modo in cui avrebbe reagito qualunque padre normale, a meno che la figlia non fosse negra anche lei. Chiunque potrebbe obiettare, non a vanvera, contro questo vostro matrimonio. Ma voi siete due esseri perfetti, che vi siete innamorati e che purtroppo avete una diversa pigmentazione. E adesso io credo che qualunque obiezione possa fare un bastardo contro la vostra intenzione di sposarvi. Solo una cosa ci sarebbe di peggio. E cioè che voi due, sapendo quello che fate, sapendo ciò che vi aspetta e sapendo quello che sentite, non vi sposaste. Beh, Tilly. Che cavolo aspettiamo a mangiare? Buonasera a tutti da Valentina Furlanetto, benvenuti ancora una volta a questo appuntamento di Radio 24 dedicato agli italiani di origine straniera, alle persone che hanno radici altrove ma vivono in Italia. Questa sera sono onorata di avere una bravissima scrittrice, una donna di talento, di grande bellezza, di grande cortesia, Taye Selasi. Buonasera. Buonasera. È la scrittrice di successo col suo primo libro, ma un libro importante, con una trama costruita veramente in maniera stupefacente per un esordiente, La bellezza delle cose fragili di Einaudi. La conoscerete perché è anche una donna di estrema bellezza che vedete anche in televisione in Un Talent. Devo dire che ho... Rosa. Peccato che i nostri radioascoltatori per ovvie ragioni non possano vederla a questo punto. Veramente. C'è sempre Google. Io volevo metterle il grembiule perché di solito all'inizio della nostra trasmissione iniziamo a cucinare. Io chiedo sempre all'ospite, che è un italiano di origine straniera, uno straniero fermo in Italia in questo periodo come lei, che vive in questo periodo a Roma, che cosa ci cucina. Ma mi hanno rubato l'idea perché l'ho vista insomma parlare di cucina l'altra sera da Daria Bignardi. Chiedo subito: qual è il suo piatto preferito, quello che cucina, quello che la rappresenta di più? Il mio piatto bagnese preferito è infatti il piatto nazionale, se posso dire, del Ghana. È una zuppa di arachide. È facile da fare. In base c'è pomodori, cipolle, pepe rosso e poi ci sono anche le arachide. Un sacco di verdure, perché io sono vegetariana, la faccio in una versione vegetariana, ma di solito c'è anche pesce oppure pollo, ma è spettacolare questa zuppa. Ho visto che anche lo chef Cracco, che era al suo fianco, era incuriosito. Lei proponeva di dare a lui una lezione di cucina, poi c'è stata? Quando vorrebbe. Devo dire che lo chef Cracco se la mangiava con gli occhi un po', questa scrittrice internazionale. E piace cucinare, insomma, è una cosa che fa, magari non abitualmente, ma le piace. No, adoro cucinare. Infatti io cucino praticamente ogni giorno quando sto a Roma. Ovviamente in questi giorni sto viaggiando in continuazione, quindi è un po' difficile cucinare come vorrei, ma a Roma, a casa, io cucino tutto il tempo, è una passione mia, davvero. E sarà una cucina ghanese, ma anche internazionale, perché come dicevamo, origini veramente per la sua biografia, sì. Ovunque, sì. Poi anche per matrimonio, no? Si sono allargate ancora di più questi orizzonti. Sì, è vero. Per esempio, io vado spesso in India e adoro il cibo indiano, i curry. Ripeto, sono vegetariana, quindi... Quindi il cibo indiano chiaramente è pieno di piatti vegetariani. Eh sì, eh sì. ci sono i legumi, lenticchie, ceci, adoro tutta questa roba. L'altra cosa che devo dire è che per una scrittrice, uno scrittore, cucinare è molto utile, nel senso che quando sto scrivendo un romanzo, anche un racconto, c'è sempre questa tensione, perché sembra che non finisco mai. Quindi cucinare una cosa, finire una cosa, è sempre una gioia. È la stessa cosa, per questo sorridevo, che mi ha detto Giunpa Lahiri, che è stata nostra ospite. Anche lei ha scelto di vivere un periodo a Roma. Roma deve avere un'attrazione in questo periodo veramente fatale per le scrittrici di origine straniera, diciamo così. Fra pochi giorni sarà agli Oscar il film La grande bellezza di Sorrentino, che non so se ha avuto modo di vedere. Che, sì, due volte. Ecco, mostra proprio Roma nella sua bellezza, ma anche nella sua corruzione, disfacimento. Forse un'immagine che alle persone che vengono da altri paesi affascina molto. Sì, perché Valentina, uno scrittore non cerca un mondo perfetto. Il nostro lavoro è sempre una ricerca nella complessità. Quindi una città come Roma, così bella, così calda, nel senso che c'è ovviamente il clima, ma anche la gente, è una bella città, ma è una città con problemi, e per uno scrittore questa è l'unica città che secondo me ci interessa. Il passo a Roma, il ritmo, non è così frenetico come si trova a New York, per esempio, a Londra, anche a Parigi. Roma in un senso si muove, va un po' più lentamente, e questo aiuta quando il suo lavoro è come il mio, nel senso che scrivere è un esercizio in pazienza. Devi essere molto molto paziente, perché non arriva velocemente la trama, non arriva velocemente la scrittura, le parole. Quindi vivere in una città che si muove in questa maniera, con questo passo un po' più lente, aiuta. Ci fermiamo brevemente, torniamo subito dopo a parlare con Taye Selasi, autrice della Bellezza delle cose fragili, un libro per Einaudi che vi consiglio moltissimo. Parleremo con lei anche di questo termine afropolitano che lei stessa ha coniato. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. You gotta give a little. Bentornati alla seconda parte di Indovina chi viene a cena, sulla base di questa colonna sonora che come ogni puntata cerchiamo di riproporvi cantata da diversi autori, da diversi interpreti. Siamo questa sera con Taye Selasi, la scrittrice della bellezza delle cose fragili di Einaudi. Dicevamo è un'arte, insomma una costruzione difficile questa, costruire un romanzo, un universo parallelo, e parlavamo anche di questo termine afropolitano. Sì, otto, ormai quasi 9 anni fa, ho scritto un saggio che si chiama in inglese Bye Bye Babar, or What is an Afropolitan, che cos'è un afropolitano. E in quel momento stavo pensando della mia identità, con un senso di confusione, nel senso che soprattutto allora, quando ho detto io sono americana, c'era sempre qualcun altro per dirmi no, non sei davvero americana perché sei nata a Londra. Ma se ho detto invece sono inglese, è venuta la risposta non sei davvero inglese perché guarda l'accento, è più americano che inglese, eccetera eccetera. Ma avevo lo stesso problema dicendo sono ghanese oppure sono nigeriana, perché non ho vissuto proprio nel Ghana o Nigeria. Quindi mi sentivo di non avere un'identità fissata, un'identità stabile. E mi è venuto in mente questa parola, afropolitano, afropolitana. Le faccio sentire un breve passo di una trasmissione americana con un ospite che probabilmente conosce e che parla proprio dell'Africa. Many of us believe that aid to Africa is crucial to lift people out of poverty, but not Dambisa Moyo. In a controversial new book, she argues that foreign aid has been a disaster for Africa and must stop. Moyo was born and raised in Zambia, but educated at Oxford and Harvard. She's worked for both the World Bank and Goldman Sachs. Her book is called Dead Aid. The book basically outlines Allora, questa era l'intervista a Dambisa Moyo, la presentazione dell'intervista. Dambisa Moyo ha scritto questo libro Dead Aid, La carità che uccide, in cui c'è una tesi abbastanza provocatoria, rivoluzionaria, almeno per quello che noi normalmente pensiamo del continente africano, ossia che gli aiuti verso l'Africa in qualche maniera non hanno aiutato il continente, anzi. Eh sì, il discorso è molto interessante. Ovviamente io non sono esperta come Dambisa Moyo. Lei è bravissima e sono invidiosa della sua forza e della sua chiarezza su questo discorso. Ma dopo di aver studiato relazioni internazionali a Oxford me stessa, posso dire che sono d'accordo 100% con lei. Fondamentalmente quando diciamo che il continente di Africa ha bisogno del nostro aiuto, stiamo dicendo che Africa è debole, e questa non è la verità. I governi africani, certi governi africani, purtroppo infatti sono, come dire, sono, diciamo che non sono onesti. E questo, secondo me, è il problema più grande che abbiamo noi in Africa. Non è che non ci sono le materie prime o quant'altro, certo. Per niente. No, ma vediamo che sta succedendo nel Ghana. Ghana è un paese dove si trova pace, prima cosa. Abbiamo una democrazia che funziona, più o meno. Almeno come funziona questa qui in Italia, possiamo dire, oppure negli Stati Uniti, quindi non è perfetta, ma esiste. Ci sono natural resources, petrolio, c'è materie prime naturali. Esatto, c'è prodotti, verdure. Siamo ricchi, ma il nostro governo, il governo ghanese, non è onesto. Quindi i soldi non arrivano alla gente, ai cittadini ghanesi. Questo è il problema. Non è che abbiamo bisogno di aiuto, di aid da Italia, gli Stati Uniti, Inghilterra, Francia, anzi. Thank you. è un continente, un continente, esatto, sì, pieno di paesi diversi. Il Mali, il Ghana, la Nigeria sono diversissimi che noi siamo abituati in maniera un po' stucchevole a mettere tutti assieme, no? E chissà che magari attraverso questi libri, ad esempio, si riesca anche noi a penetrare un po' più nella diversità di ogni paese del continente. Incredibile, e questo secondo me, Valentina, se posso dire, è un altro problema enorme. Per esempio, quando stavo facendo le invasioni barbariche l'altro giorno, c'era un ospite che stava parlando della sua esperienza in Africa, senza dire un nome di un paese. Lui ha detto, infatti, la cosa che mi ha insegnato Africa. E io stavo pensando, ma dov'è? Quale paese in Africa? Ci sono 55. È incredibile. Con livelli di povertà, di corruzione, diversi, molto diversi. Sì, sì. Quindi io parlo dei paesi che conosco e sono Nigeria e Ghana. E Nigeria e Ghana sono paesi ricchi. Per tornare al libro, si parla appunto molto di migrazione. In Italia è un fenomeno questo della presenza delle persone che arrivano, che migrano verso l'Italia da diversissimi contesti, una presenza recente. Lei come la vive nella sua vita qui a Roma, poi a Torino, perché quando registra la trasmissione di cui poi parleremo? Valentina, è una domanda molto complicata, perché secondo me il discorso di immigrazione è un discorso di classe. Io dico questo perché, per esempio, la mia esperienza a Roma finora è stata un sogno. Adoro la mia vita a Roma, adoro i miei amici e mi sentivo dall'inizio, ancora adesso mi sento completamente benvenuta in Italia. Ma vedo ogni giorno, senza eccezione, gli immigranti africani che non stanno avendo questo tipo di esperienza in Italia. E mi chiedo perché. Sono sempre interessata della tensione tra, per esempio, l'affezione che hanno gli uomini italiani per le donne nere, almeno c'è questo mito, soprattutto negli Stati Uniti, che gli uomini italiani adorano le donne nere, la tensione tra questo e il sentimento anti-immigrazione, alla fine anti-africani, che esiste in questo paese, che trovo io in questo paese. Perché? Com'è possibile adorare le donne di una cultura, ma non gli uomini, non i bambini, non gli immigranti, non le persone che arrivano qui solo per lavorare, solo per trovare un modo di sopravvivere in questo mondo? Questa è una cosa che ammetto non posso capire per niente. E per, nonostante tutta la mia gioia, la mia esperienza a Roma è piena di gioia, ma anche di tristezza, perché quando vedo gli immigranti vicino a Termini, a Piazza Vittorio, ma mi sento triste, Valentina, hai capito? Perché anche loro sono i miei fratelli, sono le mie sorelle. Era un'esperienza che aveva anche l'Italia, e sono sempre interessata di trovare e parlare con gli immigranti italiani in altri paesi, e li trovo nel Ghana, in Cina, Hong Kong, India. Sono sempre interessata di capire come vanno le loro esperienze in altri paesi rispetto alle esperienze degli immigranti africani qui in Italia. Andrea De Carlo, milanese di nascita, cosmopolita di adozione, ha scritto 17 libri. Il suo romanzo più famoso è 2 di 2. Taye Selasi, nata a Londra da padre ghanese e madre nigeriana. Il suo romanzo d'esordio, La bellezza delle cose fragili, è un successo internazionale. Giancarlo De Cataldo, magistrato, scrittore, drammaturgo e sceneggiatore. Il suo romanzo criminale ha fatto scuola. Questi sono i giurati di Masterpiece e con loro Massimo Coppola, il coach. Masterpiece, il primo talent letterario al mondo. Come ha deciso di partecipare a questo, come giudice, a questo talent Masterpiece? Infatti sono stata convinta. Da chi? All'inizio, mio marito. All'inizio non ero sicura, perché ammetto, io sono arrivata in questo paese in un momento di rubi, rubacuore, e stavo pensando, forse essere una donna in televisione italiana non è la cosa più bella nel mondo. Non aveva una bella opinione della televisione italiana, a quanto pare. Ma mio marito mi ha detto, sentita, se è vero che non esistono molte donne intelligenti, brave, belle in televisione italiana, tu puoi essere qualcosa di diversa. Tu puoi essere, in un senso, una rappresentazione di un altro tipo di donna. E quando lui mi ha detto questo, ammetto che in un senso mi sono fermata un attimo e pensavo, infatti ha ragione, forse sarebbe meglio essere una rappresentazione di una donna, delle donne come me, come le mie amiche qui in Italia. E per me è una gioia, è un onore rappresentare questo tipo di donna in televisione. Il tempo a nostra disposizione è finito. Dando la ricetta di Itaye Selasi, la zuppa di arachidi e piatto nazionale ghanese, io la ringrazio, questa donna di immensa cortesia, talento e bellezza, per essere stata con noi questa sera. Buona serata. Buona serata, ciao. Zuppa di arachidi. Ingredienti: un cucchiaio di olio di girasole, una cipolla tritata finemente, due carote tagliate a dadini, 500 g di pomodori pelati e tagliati grossolanamente a pezzi, mezzo peperoncino, 100 g di arachidi salate arrostite, un litro di brodo vegetale. Scaldate l'olio in una casseruola, unite la cipolla e le carote e friggete per 5 minuti, mescolando finché non diventano morbide e leggermente dorate lungo i bordi. Aggiungete mescolando pomodori e il peperoncino e cuocete per un minuto. Tritate le arachidi in un frullatore. Aggiungete le arachidi tritate in un frullatore mescolando ai pomodori. Unite il brodo, poi portate a ebollizione. Coprite e fate sobbollire per 30 minuti. Schiacciate o riducete in purea metà della zuppa e scaldate di nuovo. Assaggiate e regolate il condimento se necessario, poi scodellate in ciotole. Guarnite con scaglie di peperoncino schiacciate e arachidi. La trasmissione termina qui, l'appuntamento con l'Italia che cambia anche in cucina è per sabato prossimo. Buona serata a tutti da Valentina Furlanetto. You've got to give a little. That's the glory of